Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, abbiamo deciso di chiedere scusa a Erika Iglesias. Buonasera a tutti, buonasera da Rock Wave, buonasera da Maurizio Calzavara e da Marco Borgato. E buonasera ai Wild Shooter Band. Buonasera, direttamente buonasera, da Roma. Romani con vezzo, con sudista di rock sudista, vero? Giusto. Assolutamente. Veniamo da lì. Avete fatto buon viaggio? Assolutamente sì, è stato benissimo, caldo questo. Un caldo atroce stasera. È arrivato il bel tempo, veramente. È grande caldo, d'altronde è arrivata l'estate, domani è estate, quindi c'è poco da fare. Ma è meglio così, così si comincia con i live estivi, è ancora esatto, meglio. Si comincia a suonare dal vivo, fuori, all'aperto. Fuori, esatto. Ok, ci presentiamo. Bassista? Buongiorno, Silvano, basso, Lentini, grazie per il vostro invito e ciao a tutti quanti. E il chitarrista? Marco Bartuccioni, grazie per l'invito. E il nostro, la voice, la voce. Alex Tarani alla voce, grazie ancora per averci invitato qui. Stasera sono in tre, gli altri due sono a casa, li possiamo citare chiaramente gli altri due? Assolutamente sì, Gianfranco Vitagliano alla batteria, Antonio Molinari alla chitarra e il terzo grande Francesco Santalucia alle tastiere. Alle tastiere, che è uno strumento molto importante per voi, le tastiere. Assolutamente sì. È una specie di collegamento con tutti gli altri. È l'amalgama. Allora Marco, l'idea, il progetto, come è nato di questa band praticamente? Allora, il progetto nasce prima del 2006, perché io sono in viaggio negli Stati Uniti per più di è importante, sei andato in viaggio negli Stati Uniti. Molte volte, io ho un richiamo. Un richiamo, esattamente. Per gli States. E io sono stato 6-7 volte negli Stati Uniti, l'ho girato in lungo e largo. Ho avuto modo prima del 2006 di stare soprattutto nel West e nel Sud degli Stati Uniti. E lì è nata praticamente la scrittura di almeno 13 brani del primo EP, del primo album, vero e proprio. Tre ancora non sono stati realizzati, sono in cantiere. Sono fermi, sono lì, nel cassetto. In attesa della loro giusta collocazione. Chiaro. I primi dieci brani sono stati realizzati totalmente negli Stati Uniti per quanto riguarda, nella mia testa. Al mio ritorno nel 2006 mi è venuta alla fine la necessità, non la voglia, la necessità di dire ok, questi... Dopo tutte le esperienze fatte musicali in giro per l'Italia e per l'Europa è arrivato il momento di realizzarli e metterli su album. Noi siamo tutti quanti di Ciampino, una frazione di Roma, ed eravamo già conoscenti prima, amici, musicisti che giravano insomma un po' in tutte le varie zone di Ciampino, Roma e dintorni. È una bella, cioè un terreno fertile per la musica, sì. Ciampino. Sì o no? Sì, la mettiamo così. È un terreno. Che Ciampino ha avuto una grande band nel periodo degli anni 60, che sono i Jaguars, che venivano praticamente da un filone anche lì molto americano, dove loro facevano un po' la replica di quelli che erano il filone di quelli che erano i Beach Boys. Sì, è vero. Io c'ho un singolo dei Jaguars, cioè una raccolta dove c'è un singolo dei Jaguars. Praticamente, insomma, loro sono. Non ci credi, Marco? Te lo dico, Marco non ci crede, ma è vero, è così. Fantastici, loro hanno iniziato a portare poi Ciampino insomma un po' nel nome della musica, hanno girato molto, certo. E insomma ci sono dei musicisti nella zona. Noi oggi come oggi abbiamo un buon successo, lo chiamiamo così, un buon successo, stiamo girando molto in Italia e in Europa e questo ci fa molto piacere ed onore, quindi siamo poi i seguitori, diciamo, no? Continuiamo la storia dei Jaguars che hanno fatto insomma in quel di Ciampino, dai, chiamiamola così. Quindi da Ciampino hai cominciato a un discorso più allargato. Assolutamente sì, abbiamo parlato insieme, abbiamo visionato un po'. Qui c'è Alex e Silvano e anche gli altri due, chiaramente. Certo, assolutamente, sono stati loro i primi. Silvano ci ha raggiunto. Sono arrivato da... È il più giovane, come tu citavi una frase di Ron Wood. Io citavo una frase di Ron Wood che per me insomma è fenomenale, dove dice che ancora oggi, dopo 40 anni di partecipazione dei Rolling Stones, viene chiamato il più piccolo. È il più giovane. Esatto. Poi effettivamente sono anche il più giovane, perciò è vero, io alla fine... Sei Ron Wood della situazione, visto che suoni il basso. Posso starci. Potresti accontentarmi. Mi posso accontentare. Quindi niente, diciamo, a quel punto insomma abbiamo visionato insieme il progetto piaceva a tutti quanti, era uno stile di musica che veniva nel background di ognuno di noi e si è deciso di prendere questa strada. Non si è presa con un'idea ben precisa di dire ah no, che bello, vogliamo diventare le rockstar del momento, assolutamente no. È stato un progetto solo e per il semplice gusto e piacere di realizzarlo, perché quando fai musica tua originale, e questo è il vero segreto, no? Se ti piace quello che tu fai, hai il piacere a priori di farlo. la band ha iniziato a lavorare insieme duramente e già dopo un anno e mezzo di lavoro su questi brani è uscito il primo album, che è On The Road, è uscito nel 2008, è totalmente un album autoprodotto da noi, come poi accade nella stragrande maggioranza dei casi, ed è stato un lavoro che ci ha lanciato poi e ci ha permesso di iniziare a girare, a suonare in lungo e largo per l'Italia e a portare in giro la nostra musica. Scusami Marco se mi intrometto, ma On The Road è proprio un titolo americano. Io ricordo, Marco è qui presente, si ricorda anche lui, i Kennedy Dit, On The Road Again. Assolutamente. Quindi assolutamente americano, sei entrato proprio nella chiave di volta. Tu c'è poco a fare. Considera che questo album è stato scritto in due viaggi, girando tutto il West e tutto il Sud del Texas, e quindi io non ho fatto altro che prendere quello che ho fatto, cioè stare on the road per due mesi e metterlo come titolo. Nulla di più, Questo è stato un album autoprodotto totalmente da te. Sì, da voi. Da tutta la band, dove hanno partecipato tutti quanti, diciamo io avevo lo scheletro di tutte le canzoni, con i testi e con le musiche, e insieme a tutta quanta la band abbiamo fatto un grande lavoro all'interno della sala per renderle valide, arrangiate, strutturate, eccetera, e quindi lì è nato il primo. Quindi si è cominciato il discorso, si è messo le basi e via via il discorso si è messo le basi, e un produttore americano ha capito che qualcosa funzionava. No, ci metto le mani io, ha detto, nel senso positivo del termine. Certo, assolutamente. Sì, è giusto. È stata così, guarda, io non finirò mai di raccontare questa aneddota, è stata veramente un colpo di fortuna, come accade insomma un po' a quelli che fanno poi lo step più grande. Tutti quanti abbiamo un colpo di fortuna. Io ho semplicemente mandato un'email per poter fare un lavoro in America, perché volevamo realizzare uno step successivo fatto semplicemente in America. Lì ha risposto il nostro produttore Dave Bechtel di Nashville. Ci ha risposto, io mi trovo un sabato pomeriggio che mi squilla un telefono con un numero privato, era lui. Bellissimo. Mi ha chiamato perché gli avevo mandato i dettagli, e questo, giuro, è realmente stato così. E questa è la bellezza di questa collaborazione. Succede come Bubola, che quando era a casa, suo esatto, papà riceve la telefonata di De Andrea. Ma chi è questo qua? Diceva suo papà di Bubola. Ma De Andrea. Perché neanche ci credi, no? Esattamente, è successo proprio così. È andata così, lui mi ha chiamato, mi ha detto: guarda, il lavoro si può fare, ma soprattutto è un progetto che piace, interessante, e soprattutto voi dall'Italia avete fatto tanto per potervi avvicinare a quella che è la reale sonorità americana. Quindi da lì abbiamo stretto una collaborazione e abbiamo realizzato il primo EP. Lui è venuto in Italia, ha fatto le registrazioni in un noto studio di Roma, dopodiché si è portato il prodotto a Nashville. Marco si è portato il prodotto a Nashville, cioè direttamente se l'hai portato a Nashville. Non capita mai in Italia queste cose. Assolutamente no. Il contrario è un po' più complicato. Però lui ha semplicemente preso tutto il lavoro fatto in questi giorni di studio, portato a Nashville, mixato, masterizzato per la prima occasione di questo EP al Dark Horse Studio di Nashville, e ci ha rimandato questo lavoro. Noi l'abbiamo messo in macchina e via. E via, il sogno esatto. Si è realizzato praticamente. Un primo sogno si è assolutamente realizzato, anche perché la cosa importante è che proseguire la strada della musica, quando fai la tua, hai necessità di ogni volta un piccolo step in avanti e un piccolo sogno da raggiungere, un piccolo obiettivo. Quello per noi è stato obiettivo e sogno alla stessa maniera, perché non è stato il raggiungimento solamente di un punto, ma lavorare con una persona del genere posso garantire che arricchisce non solo musicalmente, ma anche la persona a livello culturale della musica, perché da lì viene una cultura, non voglio dire migliore o peggiore, diversa. Una cultura diversa, sì. Un modo di approccio musicale diverso, totalmente diverso. Esatto. E quindi da lì abbiamo stretto questa collaborazione che va avanti ancora oggi. E che ha prodotto anche il nuovo disco Inside, praticamente. Esatto, che è passato dal primo EP al nuovo disco Inside di 10 brani, di cui 7 totalmente inediti e 3 riestrapolati e portati avanti da questo lavoro del primo EP con Dave. Perfetto, adesso come sempre solito è una nostra usanza di aprire la finestra, la apriamo sentendo da disco il pezzo che avete scelto, mi pare che sia la traccia numero 1. La numero 1. Ne parliamo dopo, prima la sentiamo, cosa dite? Perfetto. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. Oh, you're shouting about me. Everything you said about us. Stupid mouth was full of air. They're just an aspirate. But now I know how I feel inside. I scream, you'll never come back. Radio Veneto Rock. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Cari ascoltatori, davvero rocker, Alessandro si è alzato in piedi, perché seduto. Alex si è alzato in piedi, davvero rocker, chiaramente, non può stare seduto. Allora, parliamo di questo pezzo, questo che apre il disco. È un pezzo importante, anche nella struttura. Innanzitutto è un pezzo di Nashville al 100%, questo si sente. È importante che nella struttura, nella voce, perché tu mi hai raccontato una cosa molto interessante come aneddoto. È stato inciso per ultimo, perché per ultimo doveva, la voce doveva essere in questa situazione, ultima di tutti i step che avevi fatto precedentemente. Sì, volutamente da Dave. E questo David ha dato questo input, questa volontà. Sì, voleva una voce più stressata, più stanca, e quindi me l'ha fatta registrare proprio per ultimo a fine giornata, dopo le 10 e mezza, avevo una voce devastata. E quindi sì, no, ma anche questo modo di cantare mi ci ha spinto lui. Esattamente. Marco, dicevi dell'idea di questo pezzo, com'è nata? Allora, Mi diceva a microfono spento, chiaramente, cari questo pezzo era nato musicalmente, era nato in un giorno. Io ero a casa, ho buttato giù l'idea di tutta questa canzone. E Silvano e Alessandro poi hanno lavorato sui testi, poi avranno modo loro di spiegare un po', insomma, tutta la loro lavorazione. Quando abbiamo realizzato poi il brano, lo abbiamo inciso io. Durante, questo pezzo mi trasmetteva molto e abbiamo e ho in maniera particolare sovrainciso tante idee prima di mandarle a Dave, perché il lavoro del nuovo album è stato realizzato così. Tutti i nuovi provini sono stati fatti da noi, sono stati registrati i provini nella maniera migliore possibile, inviati a lui e lavorati in remoto per cambiare o eventualmente a volte delle strutture proprio, quindi dei cambi e dei passaggi abbastanza importanti, oppure a volte semplicemente tirando fuori delle idee che poi avremmo registrato in seguito. E Dave, abbastanza sorpreso, mi disse: "Guarda Marco, questa traccia la lasciamo esattamente così, con tutte le idee che avete messo, e poi quando verrà giù inseriremo due o tre piccole cose. Basta considerare che ci sono 9 tracce di chitarra su questo interessante, come 9 tracce di chitarra sì, ci sono? Ci sono 9 tracce diverse di chitarra, sono state tutte quante, sembrano due, tre, sì, esatto, non di più, e forse questo è proprio il grande pregio di Dave, che è riuscito a rendere uniforme queste 9 tracce diverse, prendendo le singole idee di ognuna e facendole poi sembrare praticamente due, tre diverse, semplicemente. Esattamente. Poi una cosa importante, abbiamo sottolineato prima, questa tastiera che è la trade union a tutto quanto, cioè collega praticamente tutto Sì. quanto. Assolutamente, Lemond è importantissimo per noi. Noi abbiamo lavorato sul disco solamente con MOB3 e abbiamo un pianoforte. Quelli che non sono esperti, l'MOB3 che cos'è, Marco? L'MOB3 è un Hammond cioè, particolare, è un modello di Hammond, di suono. Forse è Forse è Lemond, forse è Lemond, Lemond originale, esatto. quello che era all'inizio praticamente. Esatto, quando parliamo di Hammond forse esiste il B3. Poi... Perfetto, poi tutti gli altri sono venuti dopo, chiaramente. Assolutamente. Ok, adesso abbiamo dato le spiegazioni del pezzo, come è nato, la spiegazione più bella è suonare. Cosa suoniamo per iniziare a rompere il ghiaccio? Abbiamo già rotto il ghiaccio, però non è che è un eufemismo, visto che ci sono 40 gradi all'ombra. Però insomma... Anche di sera. Anche di sera. E suoniamo un pezzo rock and roll, come tradizione vuole. Certamente. Tricky certo. Woman, tratto dall'ultimo album. Benissimo. Touch my guitar. Oh, love me while the sun goes down. Oh, love me until the break of dawn. Break out down. Bravi, si vede che avete suonato un sacco, si vede anche l'approccio acustico. È rock and roll. È rock and roll, ma rock and roll fa bene alla salute, c'è poco da fare. Poi, cari ascoltatori, voi non avete visto, perché Silvano lo suonava il basso seduto, ma come lo suonava? Come fosse in piedi praticamente. Come fosse un contrabbasso, fosse in piedi, assolutamente. Veramente molto interessante, molto avvincente subito, anche un rock and roll acustico, non è elettrico, però acustico già... da un certo brio morbido, ma sempre morbido, insomma, e poi io ho sentito sempre con una vena molto rock, con una vena molto rock assolutamente. Poi c'era il basso di Silvano che tagliava lo stomaco e la chitarra di Marco che lo accompagnava, e poi c'era Alex che faceva il resto praticamente. Ok, benissimo. Tricky Woman abbiamo sentito, questo è un pezzo rock and roll, assolutamente rock and roll. Perché il rock and roll dentro una band che fa rock sudista? Ma rock and roll è uno style, noi non l'abbiamo inserito. Io tengo a precisare una cosa: tutto quello che è uscito fuori da questo prodotto, che è stato poi catalogato nel reparto Southern Rock, cioè, ma non è una brutta non è una cosa positiva, è una cosa assolutamente positiva, perché si contraddistingue, vuol dire che c'è una sonorità che si contraddistingue. Però comunque vada, dietro tutte le nostre esperienze, tutto il nostro background, c'è una base blues. Ecco, ecco, volevo dire questo. Da lì un po' arriviamo. Il nostro Silvano, lo vedo che... C'ho la mia colpa. C'è la tua colpa. Che provengo purtroppo, per blues. Fortuna, no, jazz, e soprattutto funky, tantissimo. Posso dire una cosa? Sì, tu chiaramente eri un pezzo rock and roll, però la tua vena funky, anche il modo di approcciare lo strumento. Provo, giuro, provo tanto. Ed approcciare lo strumento in modo funky, c'è poco da fare. Per me è la musica del 60, cioè James Brown, sì, esatto. No, ma noi non vogliamo assolutamente che lui tolga nulla di questo. Il grande, forse probabilmente, vantaggio e la grande positività di questo prodotto è che ognuno di noi ha tirato poi le somme andando verso questo genere, perché comunque è stato forse poi anche il più naturale, ma portandosi dietro tutte le proprie esperienze. E questo è importantissimo, perché ognuno è libero di poter suonare realmente, cioè non è forzato, non devi salire sul palco e dire devo suonare questo, no, tu devi suonare quello che tu hai nelle tue corde. Esattamente. Io ho visto la faccia soddisfatta sua quando immediatamente il primo test è superato, la faccia soddisfatta immediatamente ha capito subito l'andazzo, senso positivo del termine. E a proposito di positività o di modo di suonare, di interpretare, tu sei stato, Marco, in Danimarca e hai imparato la pedal steel, esatto. Che è un strumento meraviglioso per chi ama il genere tuo, e non soltanto il genere tuo, perché Jorma Kaukonen non faceva rock sudista, però ha usato moltissime volte questo strumento. Oggi lo strumento oggi inizia a prendere un pochettino più largo piede, perché nella storia era rimasto veramente un po' collocato troppo. Sì, un po' Alma e Lanergastein. Esatto, assolutamente. E veniva un po', guarda, ti dico, nel country era molto usato. Sì, quindi diciamo nel southern e nel country era moltissimo usato. Adesso è iniziato piano piano ad entrare molto di più nel blues, molto più a superare i confini. Sì. Io ho avuto la passione di studiarlo perché conosco un mio grande amico, insomma, nelle vicinanze. Lui è Alex Valle ed è forse un po' il più grande pedastile che abbiamo in Italia. Dico questo non perché è amico mio, ma dico questo perché lo penso realmente, e vado contro probabilmente tanti altri che non lo pensano. Assolutamente, ma che comunque, insomma, giustamente stanno ad altissimi livelli, certo, con la pedastile anche in Italia. Lo strumento mi sono appassionato fin dall'inizio, è uno strumento che t'avvolge, è uno strumento diverso dal normale, sembra una chitarra steel per chi la vede da fuori, poi tu ti metti seduto e assolutamente forse non hai nulla della tecnica di una chitarra o di una chitarra steel. Mi sono innamorato dello strumento, l'ho iniziato a coltivare un po' da solo e poi sono andato in Danimarca dal maestro Henning Cook. Perché in Danimarca? Perché in Danimarca, esattamente? Perché Henning Cook è un grande pedastiller che è qui in Europa, ma il suo background è negli Stati Uniti, in Nashville, ha suonato tantissimo, viene da lì, quindi automaticamente la sua cultura è lì. Poi lui vive in Danimarca, è danese, insomma, ora è nella sua casa, suona regolarmente, ma comunque insomma vive lì. Ma anche Jorma Kaukonen è uno svedese, quindi esatto. Quindi dobbiamo norvegese, quindi norvegese, quindi sempre là, assolutamente paese, sì, un paese del nord, un paese del nord. E io ho avuto modo di approfondirla, di studiarla. Oggi ho la fortuna di suonarla abbastanza, con diverse anche altre mie situazioni, nella USB, nella WSB, e quindi insomma è uno strumento che io adoro. adoro. E mi ha portato ancora di più ad avvicinarmi alla cultura e all'ascolto di molte canzoni che, diciamo, da noi e in Europa sono arrivate in maniera molto più marginale. Sì, esattamente. Capita proprio. Bene, interessante. Ok, adesso sentiamo un altro pezzo da disco. Abbiamo scelto la traccia, mi pare, non mi ricordo. Non me la ricordo, adesso la vediamo. È la numero 3, la dice numero Marco. 3 abbiamo da Smokey Chicago. Questo è un pezzo molto importante. La critica l'ha giudicato benissimo, è effettivamente un pezzo importantissimo. Ne parliamo dopo e lo sentiamo prima, così ci carburiamo. Okay? Perfetto. Vai. Rock Wave, l'onda del rock. Everybody's watching. You gotta feel, just grab your guitar. Playing blues that count down from heaven and mixing with the smooth that counts down on Chicago. Smoke, smoke, smoke, Chicago. Where the blues is deep in your soul. Smoke, smoke, smoke, Chicago. Where the buildings are high. Oh, my such in the sky. Smoke, smoke, smoke, Chicago. Smoke, Chicago, where the buildings are high. Almost touch the sky. Smoke, smoke, smoke, Chicago, where the blues are deep in your soul. Smoke, smoke, smoke, Chicago. Wave, l'onda del rock. Eccoci qua. Sì, giustamente Marco mi faceva notare, ha scritto Gianluca Merli, lo salutiamo moltissimo, il nostro ciao, grandissimo Gianluca. Amico. E ci abbiamo deciso di fare un programma con lui, un ennesimo programma di rock, forse in agosto, proprio una grande rimpatriata come abbiamo fatto l'anno scorso. Ciao Gianluca, grazie per l'ascolto, ci sei sempre vicino. E parliamo di questo pezzo, Silvano, qua era un pezzo funky, c'è poco a fare. Ma Dave ha detto, sì è un pezzo funky, però La devi fare così. Dave, come ti raccontavo, Dave è una persona fantastica e ha una mente che lavora a velocità che non riusciamo neanche a immaginare. Forse spero un giorno di arrivarci anche io, insomma. Lui mi ha dato tanti consigli, io ho registrato con lui e ho avuto in pochi giorni più esperienza di quanti ne puoi fare in anni durante la scuola, no? Lui mi disse tante cose, poi mi fece un gran complimento, mi ha riempito il cuore per anni e mi disse, guarda Silvano, tu hai registrato tutte le tue take sembra come se non hai bisogno di editing, anche allargando lo spettro sembra che non hai bisogno di editing, e questo per un bassista penso sia... Sì, è il massimo. Sì, ma su questo brano, ma su Smokey Chicago, io ho avuto... T'ha fatto sudare, 40 minuti di inferno, mi svegliavo la notte perché è stato molto difficile creare non soltanto il groove, non soltanto veramente l'intenzione di suonare questo brano come la voleva lui, ed non è stato facile. Ma già il titolo Smokey Chicago... ci deve essere il funky, nonostante tutto, ci deve entrare, anche se Dave, bene o male, Dave, chiaramente stiamo scherzando, però il lavoro era quello. No, ma Dave poi mi ha sempre detto, guarda Silvano, tu la devi suonare così e la devi registrare così, poi quando fai live, fai tranquillo, puoi fare anche qualche cosetta di più, ma adesso tu devi fare quello che dico io. Mi raccomando. E così è. Bene, è stata un'ottima soluzione, Silvano. Sì. È stato poi un'ottima soluzione, perché il pezzo mi pare il pezzo numero 3, e dopo un pezzo iniziale che doveva sfatare, doveva rompere il ghiaccio, e poi Sexy Thing, un altro che cattura l'attenzione, questo qua è un po' il colpetto di grazia, esatto, no, lo svirgola in una certa maniera, lo svirgola. Guarda, ti basti considerare che questo è uno dei tre brani che viene portato avanti dal primo album. Questo era nel primo album, è stato completamente rivisitato nell'EP ed è stato perfezionato poi per quest'ultimo, perché comunque tutti quanti i tre brani dell'EP sono stati poi reinseriti in questo ultimo album Inside e comunque ulteriormente revisionati sotto alcuni punti di vista, diciamo, certo. Seconde voci, alcuni cori, alcune piccole parti, e quindi poi riadattati comunque al nuovo sound di tutto il nuovo disco. Esattamente. E questo è comunque un brano molto funzionale che viene dal primo album, quindi noi ci portiamo avanti dal 2008 e dobbiamo dire, insomma, forse anche quello che ci piace continua, no, ad essere tra i nostri fans, è quello che tira un po' di più. Poi Alex va a nozze questo pezzo, chiaramente si sente già, l'approccio è totale. Benissimo, l'approccio totale 22:40, totalmente suoniamo ancora. Che cosa? Suoniamo Sexy Thing, ne hai parlato? Suoniamo proprio quello, sì. Abbiamo parlato ora, vai. Esattamente. Remember tonight you with your boots and your short skirt, baby. Rock, baby, rock, whoa, whoa, whoa, rather to fly, whoa, rather to fly. Together we are never so light. Together we are never so light. Together we are never so light. I wonder if together could be a true story, or you are a free, wild, sexy thing. You in my car, you were my cowgirl heart, oh baby. You were so shy, just my hands got you fired out. So wonderful, your kiss on my wet lips, lovely baby. Your skin with no panties has totally broke down. Has totally broke down. Together we are never so light. Together we are never so light. Together we are never two lies. I wanna know if together could be a true story, or you are a free, wild, sexy thing. little lies. Together we are only so lies. Together we are only so lies. I wanna know if you are hearing me, oh, just a baby or a real life sex machine. Web sex machine. Baby, baby, baby, baby, baby. Web sex machine. Bravissimi, due cose da dire su questo pezzo. Dunque, Marco la suonava l'acustica come fosse una chitarra elettrica, e mentre Silvano suonava come fosse una batteria il suo basso, gli dava proprio. Quindi dava bello fatto. Poi c'è Alex che chiaramente chiudeva il cerchio. Contorna. Esatto. Contornavo. Contornavo e tutto. Sento la mancanza del mio Gianfranco, di conseguenza me lo porto un po' con me. No, il pezzo era molto bello, molto interessante, e l'avete fatto in versione assolutamente blues, secondo me. Sì, sì. Qua era proprio blues. Sì, questo era blues vero. Blues vero, assolutamente così. E questo è positivo. Ma era quello di cui ti parlavo sì, prima. Sì, certo. È vero che quando sei in sei tu riesci a pilotare, no, le sonorità in una certa direzione, ma quando poi dopo suoni in due, in due, esce fuori quello che tu realmente hai, esatto, no? E quindi è vero, esattamente, è proprio blues secco. Quello, cioè. Ma è una sensazione piacevole, il blues che viene fuori sempre, il blues è la madre, il padre, possiamo dire, sì, di tutto, la mamma, il papà di tutto. È interessante, estremamente interessante. Tutto dal vivo, tutto in diretta, 22:45 31 secondi, benissimo. E il progetto di Inside è nato, sì, è nato con questo produttore americano, questo David, che vi ha dato una spinta notevolissima, e i 7 pezzi sono inediti, vero Marco? Sì, assolutamente sì. Che difficoltà c'è stata a creare questi 7 pezzi? Mi dicevi che ci sono altri pezzi pronti nel cassetto, però per motivo diverso sono là. Sì, sono gli altri sono lì perché allora i nuovi 7 brani erano stati già iniziati ad improntare man mano che suonavamo. Quindi dei spettacoli live. Esatto, durante gli spettacoli live, quindi durante questi 2 anni di concerti, tutto quanto in giro per l'Italia, e anche queste apparizioni che abbiamo fatto nel primo periodo, un po' meno frequenti, diciamo, in Europa, ora comincia ad essere molto, molto più frequente. Man mano, sai, un po' come fanno e come dicono i grandi, quando vai in tour è lì che forse devi scrivere realmente le canzoni, perché è lì che tu hai poi il tuo imprinting su quello che realmente fai. Quindi man mano sono stati scritti questi brani, e quegli altri 3 che erano ancora del primissimo del primo lavoro disco, stanno ancora lì in attesa di nuove soluzioni. Inside doveva essere un album di 9 brani e di una cover. Invece poi alla fine nacque così, dobbiamo dire, nacque anche quella in un giorno, in un momento, insomma, sai, di quelle in cui ti guardi dentro, un po' non ti funzionano un po' di cose. E nasce Why You Told Me To Go. Why You Told Me To Go è l'ultima traccia dell'album. La traccia numero 10. La traccia numero 10. Che è una traccia diversa. L'unica, esatto, l'unica diversa. Molto interessante, decisamente. Una ballad. Cioè, una ballad, assolutamente una ballad. E quindi, se non ricordo male, un mese prima delle registrazioni con Dave era tutto quanto programmato, l'album doveva essere 9 tracce ed una cover già lavorata, già pronta per l'incisione. Mandiamo il pezzo a Dave, ok, perfetto, la cover non mi si dispiace, no, non si taglia, la cover si taglia e i 10 diventano con Why You Told Me To Go. Grande soddisfazione, perché è un pezzo nato anche quello lì in un giorno, nato immediatamente così, ed è quello che insieme appunto a Smokey Chicago ci sta dando poi delle grandissime soddisfazioni, certo. Sì. Mi diceva Alex, prima microfono spento, andate 2000 km in Polonia, andate e ritorno. Come si fa a fare 2000 km in Polonia, bello, praticamente andata e ritorno, Alex? Innanzitutto con un furgone. Con un furgone, sì, esattamente, quello è fondamentale. A piedi è difficile. A piedi è molto difficile. No, con grande entusiasmo innanzitutto, sai, fare un viaggio comunque tutti e 6, 7 con Fabio, prego, cito Fabio Bartoscio, il papà di Marco, che è il nostro oramai... È il driver. Oltre che il nostro fotografo ufficiale, adesso è anche il nostro driver. 2 viaggi in Polonia, si è assorbito, quindi ormai fa parte della band. Berlino. Berlino, l'abbiamo portato un po' dappertutto. Sì, sì, ce lo portano dappertutto. E niente, sì, questi 2000 chilometri alla fine magari nemmeno li senti, perché stai andando comunque a suonare, come abbiamo fatto ultimamente in un festival blues molto importante, il Gdynia Blues Festival, insieme ad altre band molto, certo, importanti. E quindi alla fine i chilometri passano sulle spalle. Quello che ci dicevamo noi quando stavamo venendo, no? Che praticamente è successo questo, è molto facile. Noi siamo abituati che se saliamo su una macchina ci muoviamo per ore e ore e ore. Quando siamo arrivati qui praticamente al ridosso della radio abbiamo detto: ma abbiamo già fatto 800 km. Ma per noi questo è lo standard, comincia ad essere poco. Si alza così tanto e dice: 1000 km che li facciamo, che problema c'è? Un'altra cosa, Alex, l'approccio del pubblico polacco com'è stato praticamente? Ottimo, molto buono, grande entusiasmo. Cosa che vorremmo vedere molto più spesso qui in Italia. C'è un altro modo di interpretare la musica. Un'altra cultura musicale. Loro vengono dal blues, perché comunque insomma lì è molto usato il blues, viene molto suonato, ed anche il festival dove siamo stati è un festival blues. Però come diceva Alex, realmente abbiamo avuto un'accoglienza, non ci aspettavamo. Abbiamo avuto la notizia e il contatto in questi ultimi due giorni, proprio mentre venivamo in viaggio, della possibilità di poter partecipare ad un altro festival adesso per la fine della stagione. E c'è stata un'accoglienza, ma non solo l'accoglienza nelle persone con noi, c'è stata proprio una recezione del prodotto e del progetto che è andata al di sopra di quello che ci aspettavamo. Andare, diciamo, a suonare lì tre volte in un anno vuol dire insomma che qualcosa ha smosso. È chiaramente qualcosa è rimasto, quindi, esatto, che ha fatto praticamente richiamarvi, esatto, immediatamente. Esatto. Poi nel resto dell'Europa ugualmente, perché comunque noi lavoriamo con la TSP Entertainment di Tony Brook in Germania, che è la nostra agenzia di booking che ci porta, diciamo, un po' insomma in tutta quanta l'Europa. Però questo fenomeno un po' della Polonia e dei paesi dell'est ci fa capire che realmente c'è un terreno fertile in Europa, quantomeno a recepire. Perché in Italia, parlo con tutti e tre, perché in Italia c'è questa difficoltà a recepire musica, soprattutto a recepire musica dal vivo fatta da gente inedita? Questo posso portare un argomento a piacere? Spara le cose. Non lo so. Spara le cose. Sono le tematiche sono tante, però forse non so se poi verrò censurato, ma la TV non ci aiuta, perché creano tutti questi programmi, talent show, tutte queste cose che stanno ormai portando in luce l'individuo, il singolo. Il concetto di musica ormai è legato ad un volto, mentre in teoria e anche poi secondo noi veramente in pratica la musica è una cosa corale, devono esserci interazioni di più persone e più menti, non una persona scelta per vincere o scelta per fare quello che poi dopo è una carriera musicale, che possiamo dire che è anche un po' una piccola meteora, perché ormai siamo costellati di meteori nella musica italiana. Per noi la musica è altro, e in Italia forse tanti ancora non riescono a uscire da questo piccolo labirinto. Vedono la TV, vedono l'individuo, e l'individuo è la musica. E quindi questi festival così grandi sono quasi sempre assistiti da persone, da singoli, perciò da grandi cantautori, da grandi artisti, ma singoli, senza fare nomi. Ma parlando di Roma, al primo maggio, di band ce n'erano poche. Avevamo tantissimi nomi, tutti molto validi. A me piacciono l'80%, perché ascolto veramente quasi tutta la musica, ma non c'erano band. C'era una, però posso aggiungere, Silvano, c'era lo spettacolo di un'ora, tutte le band alternative giovani. Sì, quello lo fanno ancora, quello l'hanno fatto chiaramente. Sì, ci sono stati 50 minuti per Caparezza, questo siamo d'accordo, niente da dire per Caparezza, perché adesso tira Caparezza, però 50 minuti sono tanti, certo, praticamente. Sì. Ma sai, secondo me la cosa anche un po' ancora più borderline qual è che si sta lavorando sui singoli come interpreti o come cantanti, non, perché fino a che esistono ancora i cantautori, quantomeno dietro c'è un lavoro diverso della musica, ma oggi si sta lavorando molto sul cantante, sulla canzone che arriva già pronta, sull'interpretazione e basta, stop. Quindi tu lo puoi percepire che questi ragazzi, che non hanno colpa, perché giustamente loro devono cavalcare quella che è la loro strada e la loro onda, e ci stanno dentro, però interpretano, poi dopo si trovano di fronte alla reale difficoltà di una realizzazione, di andare avanti e avere la propria identità, che no, non c'è, non, è costruita e non c'è, quindi. Lo so, negli States oppure fuori d'Italia le dimensioni sono diverse, le idee sono diverse, più sì, che dimensioni, le idee. Sempre, esistono anche queste cose, esistono anche ma esistono anche tantissimi altri contest. Cioè, Marco ci racconta molto dai suoi viaggi, perché ne fa veramente tanti, che negli States la musica non si ferma mai. Non c'è un locale dove tu non entri e quasi al 100% trovi musica. Ma già alle 10 di mattina. Alle 10 sì. Non nell'evento sì. Live e poi arrivederci e grazie e bravi tutti. No, la musica negli States si muove sempre, è una costante. Diciamo, la musica fa parte della vita, non è una cosa sì. Studiata o da fare. La musica è una parte di vita degli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra c'è questo. Certo. Poi magari con radici diverse o con filoni diversi. Però realmente tu puoi respirare quest'area dove la dividi, dove c'è il lavoro, dove c'è la famiglia, dove c'è la musica, è tutto quanto settoriale, sì, sì. Ma comunque fa parte sì, della vita normale. Integrato nel discorso, esatto. Totalmente. Esatto. Benissimo, sono le 22:54, adesso fra poco ci sarà la domandina, ti ricordi Marco, la solita domandina che facciamo noi da tanti anni. E adesso, ci preoccupiamo? Sì, una cosa semplice, facciamo sentire un altro pezzo dall'album e poi parliamo della domandina. E so che traccia avete scelto, non me lo ricordo. Credo che adesso sia Why You Told Me To Go, il nostro ultimo singolo, che è adesso proprio negli ultimi due mesi abbiamo realizzato il nostro videoclip ufficiale. È il singolo che sta andando un po' di più per il nostro album. E insomma, chiunque voglia poi può anche fare il suo click su YouTube. Perfetto. Possiamo ringraziarla anche la Zen Movies che ha assolutamente fatto questo piccolo un grande lavoro. Lo sentiamo e poi ne parliamo, che è un pezzo molto interessante che abbiamo scelto anche noi per dare là al disco, praticamente nella nostra radio. Rock Wave, l'onda del rock. Winter day, and you still warm my body with Blu Radio Veneto Rock. Questo è un pezzo che ha tante storie, voi, cari ascoltatori, voi non potete sapere, però io l'ho saputo adesso. Molto interessante, molto complesso, ma nel senso positivo. Intanto questi violini, questi archi, sono archi veri, sono nati a Nashville, vero Marco? Assolutamente sì, sono archi veri e sono stati lavorati da Dave, più un arrangiatore, più i quattro musicisti. È stato un lavoro fatto, questo forse l'unico più su misura come brano. Noi quando l'abbiamo ascoltato e quando l'ha ascoltato lui abbiamo deciso che poteva far parte del mondo anche della cinema. Del cinema. E quindi abbiamo deciso un po' più lì, cosa che spesso si fa sulle canzoni, di renderla più cinematografica e quindi grande come canzone, perché le ipotesi erano o di mettere un violino o due che la rendessero un po' più country, o di addirittura con un quartetto di archi di renderla molto più grande come canzone. E con Dave abbiamo poi deciso di fare questo, perché lui ci ha consigliato, ha detto: ragazzi, dobbiamo fare così, verrà fatto sicuramente. Lui ce l'aveva già nella testa, quindi ci trasmetteva la sua sicurezza, e l'abbiamo realizzato in questa maniera. Lui l'ha lavorato, appunto, come ti ho detto, con il quartetto d'archi. L'aneddoto molto carino è che questo fu l'ultimo brano che ci fu inviato da Nashville prima per completare l'album, diciamo, dopo il mix. E ci disse: ragazzi, se potete, magari incontratevi tutti quanti, fate un meeting e io vi mando la canzone e vi vorrei vedere quando la ascoltate. Quindi tramite Skype eravamo collegati e noi ascoltavamo il pezzo. Insomma, puoi immaginare tu l'entusiasmo, no? E la grande soddisfazione per aver poi preso e realizzato un pezzo così, insomma, grazie a lui. Alessandro, Alex diceva una cosa bella mentre il pezzo andava: mi emozionava il suono degli archi, vero Alessandro? Assolutamente, mi immedesimo in chi ha suonato l'arco, a chi ha suonato il violino, e quindi mi sarei emozionato al tempo stesso sentendo questa melodia. È un pezzo splendido, poi magari è il nostro, siamo di parte. Però vedi, sì, un pezzo splendido. È anche una cosa interessante che abbiamo parlato con i ragazzi sempre a microfono spento, la voce di Alex accompagna il pezzo, cioè lo trascina nel senso positivo del termine. La tua voce trascina il pezzo, cioè ti sei immedesimato al 100% nel brano. È la canzone forse dove ho sentito più pathos, proprio questa qui. E mi sono realmente emozionato quando la stavo registrando e niente, è un pezzo che mi è entrato praticamente dentro. E che secondo me era difficile cantare questo pezzo qua, perché era decisamente diverso dal solito, dal tuo stand normale. L'ho sentito particolarmente proprio per questo. Sì. Devi considerare questo, che il 90% delle altre 40 voci che avete fatto sotto sono state tutte quante realizzate da Alex e fatte al momento, sì, da Dave. L'armonizzazione, cioè, nel senso, creata. Cioè Alex decideva in quel momento e Dave li prendeva immediatamente. In quel momento. Lui in regia, quando mandava il pezzo, si cantava le seconde, le terze linee melodiche, le cantava al microfono, in regia, in cuffia ad Alessandro, e Sandro, colpo secco, una fotocopia le ha realizzate. Questo perché? Perché obiettivamente le voci in America e soprattutto nel mondo country sono meravigliose. Certo. E Dave nel caso specifico non ha realmente rivali, cioè non abbiamo neanche azzardato prima a realizzare una seconda voce melodica, era impossibile, erano completamente annichilite da lui, cioè lui realmente le cantava in quel momento, le sentiva, le cantava, e Alex fotocopia, come dice Silvano, realizzate. E ce ne sono molte, soprattutto in questo brano, sì, che come dici tu rendono il cantato di Alex, che viene da un genere un po' più rock, un po' più duro, certo, lo rendono un po' più morbido. Chiaro. È un narratore in questo brano. È un narratore, hai detto una cosa giusta. Esattamente. Adesso facciamo una cosa di questo genere, suoniamo un pezzo e poi narriamo le vostre preferenze musicali. Vabbè. Che cosa suoniamo adesso? Noi ci suoniamo Golden Eagle, che è stato il nostro primo singolo, e anche questo viene dal primo album, noi è un piacere suonare e portare anche quelli che erano i nostri lavori già di 4 anni fa, che sono nell'ultimo disco, ma che comunque riveduti e corretti, possiamo dire. Esatto. Here I feel just like the eagle free in the sky, chained to his land, spread his wings to want to spray from the mountains high to desert sand. From whereby he sees a victim, the rebels need, he's gonna die without fear or hesitation. Swoops down from out of the sky. There's no escape from the eagle. You always got to be aware. What I think of will buy the golden eagle. What's in the air? All by myself, I'm alone. Down free in this land, never ending, oh liberty. I look for the water and I cry. I'm just like a eagle in the sky. Look for the water and I cry. I'm just like a eagle. Sky. Other birds seeking his land, but the golden eagle he commands. Respected by all the birds of prey, he controls and shows the way. There's no escape from the eagle. He always got to be aware. What I think of way up high, the golden eagle, what's in the air? All by myself, I'm alone, but I'm free. In this land, never ending, oh liberty. I look for the water and I cry. I'm just like the eagle in the sky. Look for the water and I cry. I'm just like the eagle in the sky. Bravissimi Wide Shooter Band, Marco, Silvano e Alex stasera. Grazie in rappresentanza degli altri che grazie, ti stanno sentendo. Franco, Antonio e Francesco. Esattamente. E posso dire una cosa? Questo è un pezzo molto bello perché ha delle, degli impasti vocali. Gli impasti vocali sono interessanti e essenziali in questa fase acustica di stasera. Sì. Sono, ricordano molto questi, questi grandi, grandi estensioni, grandi, grandi panorami americani. Forse io penso un po' così. Diciamo come quello che è nel testo, perciò esattamente che vola dall'alto e cerca l'aquila di... è l'emblema degli Stati sì, Uniti, c'è sì. poco da fare. Ci sono, sì, è proprio è dappertutto. È dappertutto. Nel brano c'è proprio questo, c'è la visione della vita dal basso, c'è la visione della vita dall'alto, come una sorta di ricerca di qualcosa che non deve mai finire. Il concetto proprio dell'utopia, qualcosa mm-hmm. che all'orizzonte è lontano, ti avvicini, fai dei passi, ma l'orizzonte è sempre là. Certo. Quindi guardare questo orizzonte sia dall'alto dei cieli che dalla sterpaglia, come si può vedere nel nostro video. Noi abbiamo scelto proprio una scena molto importante che fa capire che la vita va vista da sotto, sotto, sotto e da sopra. E da sopra, sopra. Salutiamo anche e ringraziamo il nostro direttore artistico Alberto Prisco, grazie a voi, grazie a lui stasera siete qua. Alberto, grazie mille, Alberto. Sì. E adesso Alberto, facciamo il giochetto, il nostro giochetto. Facciamo, quanti dischi facciamo, Marco? Facciamo tre, cosa dici? Cinque, lui ha detto, ha detto cinque. Cattivissimo. I cinque dischi da portare su un'isola deserta, i cinque momenti musicali, wow, a vostro piacimento. Chi parte, chi inizia? Wow. Perché non guardate, aria di... Ma io, il fatto che siano 5 sono contento, perché fosse per me sarebbero 5.000, però... Lo so, il tempo è quello, dobbiamo accelerare. 5 allora possiamo fare... Dimmi. Scenes from a Memory, album dei Dream Theater, che rappresenta il progressive per me, rappresenta una crescita musicale, un momento in cui ho capito che forse si poteva fare di più con il mio strumento. Vediamo Marco che faccia fa sui Dream Theater. Sì, accetta, lui accettato. Poi, accetta. Poi Scenes from a Memory, insomma, è un album che... poi, parlando di Southern Rock, sicuramente God and Guns, l'ultimo dei... lo so, mi guardano con occhi di fuoco. L'ultimo dei Lynyrd Skynyrd, che ci rappresentano il Southern nel mondo. Certo, chiaramente. Poi Master of Trades di Marcus Miller. Tu sei uno strumento particolare, quindi l'ho collegato. Momento, no, ma in genere sono proprio un Marcus Miller signature, quindi sono innamorato. Certo. Un innuendo di Queen. Forse come mai Queen innuendo? Perché loro anche ti insegnano che in 5 riesci a ottenere tanto, e ti insegnano alla semplicità. John Deacon è un bassista che a me ha insegnato che bastano 2 note. Non serve, devi saper suonare le pause per saper suonare il basso, e devi saper stare calmo. Poi non ci riesco sempre, perché sono piuttosto irrequieto in quello che faccio. Sono dinamico, sono molto confuso, uso molti colori, però cerco di tenermi grazie a lui. Penso a lui e dico ok, il basso deve fare anche la tonica, perché se non lo fa lui non lo fa nessuno. Quindi il basso deve fare anche la tonica, te l'ho sempre chiesto io, di fare la tonica adesso. C'è una guerra, no, una guerra, c'è una guerra amichevole, diciamo, perché è normale che quando entra una persona nuova in una band, l'abbiamo detto proprio all'inizio della trasmissione, no? C'è sempre, da un valore aggiunto in ogni caso. Un flusso che magari prima non ti aspettavi, forse in genere diciamo che il basso è uno strumento piuttosto quadrato, possiamo dire quadrato. Invece i miei maestri, uno in particolare mi ha sempre detto, il basso è il libero in una squadra di calcio, anche se a me il calcio non piace, è una figura che mi fa pensare, perché se non ci pensa lui a tenere tutti dritti, tutti in regola, Il basso è essenziale in una band, c'è poco da fare. Poi è lo strumento mio, quindi è impossibile. Chiaramente sì. Poi io ne ho detti 4, però se volete vado avanti altri 5-6. No, un altro solo. Allora, un altro solo. Tutti gli Earth, Wind and Fire, posso? Come no, il funk arriva sempre. Tutti gli Earth, Wind and Fire. C'è poco da fare, il funk arriva sempre. Tocca a te, Marco, allora. Allora, sta a me. Intanto vi accenno che Silvano ha citato uno che era il mio primo in assoluto, e quindi Silvano la pagherà cara nel viaggio di ritorno, ed è lungo. Ascoltandolo 600 volte. Intanto non lo cito tra i 5, ma l'album era God and Guns di Lynyrd Skynyrd, che è l'ultimo. Certo. Ed è meraviglioso, veramente. Allora, io porterei Amorica dei Black Crowes. Perché quell'album un po' particolare, con quella copertina molto particolare molto di Black particolare, perché lì viene fuori un po' quella che è la mia massima vena rock. Nel senso, loro lì fanno secondo me del gran rock. E, cerco di farmi perdonare. No, no, non ci provare. No. E secondo me lì è il loro punto migliore, andando dietro le varie canzoni, il loro punto migliore. Sono tosti loro, Sì, sì, loro sono molto tosti. È il mio limite massimo per il rock. Oltre quello, poi, insomma, comincio a soffrire anche io. E, porterei assolutamente A Bigger Band dei Rolling Stones, che è il loro ultimo. Come mai un album così vicino e non noi, tutti gli altri? Allora, io adoro i Rolling Stones. Sì. Per me, tra le tre band primarie in assoluto, c'è Springsteen, Lynyrd Skynyrd dei Rolling Stones. Hai visto Springsteen? Dirci? Assolutamente sì. Sì, dove assolutamente l'hai visto? Sì. Io l'ho visto all'Olimpico di Roma e a San Siro di Milano. Perfetto. Meraviglioso. Copiato vicente. Meraviglioso. Anche senza Clarence. Sì, esatto. Perché senza di lui la perdita è grande, però realmente, insomma, la band è meravigliosa. Strepitosa. E porto quello perché? Perché secondo me i Rolling Stones sono la più grande rock band mai esistita in assoluto, anche per la loro longevità. E però devo dire che le sonorità che hanno e la maturità che hanno acquistato dopo, giustamente, 50 anni di carriera, dopo 60 dischi, dopo non li possiamo contare, dopo baruffe incredibili fra di loro, esatto, esatto, sono giunti a registrare a Big Band, che secondo me è a livello sonoro quello che loro poi potranno anche essere canzoni forse o di scarto o canzoni fatte per la realizzazione del nuovo tour, tutto quello che vogliamo. Però dietro c'è l'impatto sonoro del 2008, se non ricordo male, o insomma quel periodo lì, con 50 anni di esperienza. Quindi racchiudo lì i 60 album che non posso portare con me. Chiaro, chiaro. Poi porto The Essential dei Linus Kynan, dove c'è Simple Man, dove c'è Free Birds, che probabilmente sono, insomma, no? Le due canzoni. No, non ci provare, sei in debito e non la mai. L'ultimo doveva essere The Complete Collection di John Denver, e qui vado a finire su quelle che sono poi, insomma, le mie radici un po' americane del West. Come mai John Denver, musicista amatissimo, adesso leggermente dimenticato? Assolutamente sì, non lo so, secondo me lui ha realizzato nella sua collection, ha realizzato un po' quello che è tanto veramente di quelle sonorità americane, di questi spazi aperti e di quella semplicità. Cioè, ascoltare la sua voce è come ascoltare realmente uno strumento per me. Io non identifico John Denver nella sua voce come un cantante, lo identifico come un quinto, sesto strumento in una band. A me trasmette in maniera particolare tanto, lo adoro, ce l'ho sul mio iPod costantemente, e quindi quando mi devo rilassare, mi devo avvicinare lì agli Stati Uniti, io metto John Denver. Lui ha scritto degli hit colossali, io ricordo uno vecchissimo scritto per Peter Paul e Mary, Live on Jet Plane. Sì, assolutamente, quello è un grande grit meraviglioso. Ma poi le sue canzoni sono state poi rifatte, reinterpretate da tantissimi, insomma, perché rimangono realmente era uno che era sempre nei primi posti in classifica, e poi è stato superato da Garth Brooks. Sì. Dal punto di vista del country ha venduto un sacco. Assolutamente, ha venduto tantissimo. Ha venduto tantissimo, anche raccolte, un sacco di raccolte che ha in America. Ma sai, io in John Denver vedo più una persona stabile, cioè nel senso che nell'arco della sua carriera potrà avere avuto anche lui, ora è il suo momento un po' più dimenticato, quello che sia. Però non so se tu ti ricordi sicuramente, e molto più di me perché l'hai vissuta, la pubblicità della Coca-Cola, quella del periodo degli anni 70, esatto, quel momento lì. Dove rivivevano, insomma, un po' in triangolo i famosi periodi dei figli dei fiori, eccetera. Non so, io la voce di John Denver a me porta lì, anche se non l'ho vissuto. Beh, lì abbiamo Jet Play del 67. Esatto. Però nella sua carriera lui a me porta lì, mi sarebbe piaciuto viverli, non l'ho potuto fare, quindi li vivo per sentito dire dai miei genitori che mi portano le loro esperienze, e poi, insomma, da quello che vedo. È stato un musicista che ha avuto una fine strana, nel senso, questo aereo che si è inabissato, sì, questo che è andato giù così, esattamente, che ritornava a un discorso di molti anni prima di un altro musicista famoso che ebbe la stessa fine, insomma, praticamente faceva del rock and roll. Sì, ma guarda, io credo che lui sia rimasto un po' troppo, come si dice, legato a quel periodo. Esattamente. È rimasto realmente troppo così. Esattamente. Ha portato più avanti possibile quella che era la sua musica, la sua ideologia, che ad un certo momento si è evoluta un po' meno rispetto appunto ai Rolling Stones, ad esempio, come ho detto, dove l'ultimo album sono sonorità modernissime, sono sonorità di oggi, mentre le sue continuavano ad essere sempre un po' troppo legate a quel periodo, quindi il filone diventava sempre un po' probabilmente più sottile. Quello credo sia una delle motivazioni, non assolutamente le canzoni realizzate e i prodotti che faceva, certo, credo solamente quello lì. E poi mi vendo l'ultimo, spero che voi non lo conosciate, così almeno abbiate anche l'occasione di poterlo conoscere, ed è un artista che oggi negli Stati Uniti ha soprattutto in Nashville, ha un grande successo, però è un artista americano, non è andato mai oltre a tour mondiali, e io ho avuto l'occasione di vederlo live a New York, quindi porto un po' avanti la storia delle band come noi, no? Che fanno un certo tipo di storia. Lui si chiama Eric Church. E l'album è sicuramente il secondo, quello che mi porto. Il primo è meraviglioso, il secondo è come al solito l'evoluzione, quindi la completezza, no? E l'album è Sinners Like Me, e comunque se lo posso consigliare magari... Eric Church. Eric Church, in italiano Enrico Chiesa, sì, come noi vorremmo dire. Che è un giornalista famoso, Enrico Chiesa. Sì, esatto, lui sì, trasformato in inglese diventa questo Eric Church che io ho avuto l'occasione di sentire al B.B. King di New York. B.B. King Club, e non so, sono rimasto entusiasta della sua voce e del suo modo di lavorare. È comunque un rock country, non è nulla di chissà che strano genere, però secondo il mio punto di vista meraviglioso. In questo momento particolare della sua carriera sta andando veramente molto, sta in escalation. Benissimo. Tocca a te, Alex. Grave compito. Io... Da come noterai dalla mia lista, mi dissocio. No, non mica lista di lista, la vedo adesso, praticamente. Mentre loro parlavano, io appuntavo. Hai preso nota. E allora, parto subito con un classicone, Let It Be dei Beatles. Come mai Let It Be dei Beatles, no? Sgt. Pepper, o Revolver, o Rubber Soul? Allora, innanzitutto, essendo il più longevo, il più grande della band, quindi mi porto dietro i Beatles già da ragazzino. Lady B perché secondo me racchiude tutta la loro storia. Come l'ho ascoltato io, secondo me è il massimo dei Beatles. È un album scritto, era un album nato da molte vicende strane praticamente. Assolutamente sì, però ci sono dei pezzi strani. Esattamente, dei pezzi meravigliosi. Ci sono dei pezzi meravigliosi. E poi The Wall di Pink Floyd, ecco un altro classico. Dire Dark Side of the Moon sarebbe stato troppo scontato. Sì. Grandissimo album, certo. Però The Wall lo sento più o meno. Lo senti perché è l'album di Roger Waters al 100% oppure perché è l'album di Pink Floyd? No, perché è l'album di Pink Floyd. Ecco, sì, no, volevo sapere questo perché è scritto Pink Floyd, però siccome ha fatto tutto lui praticamente, gli altri hanno dato una mano, però è praticamente un album suo di Roger Waters. Sì, assolutamente sì. Poteva essere anche un album solista al limite. Però i Pink Floyd si sentono. Sì, sono d'accordo. Infatti Roger Waters, quando se n'è andato dai Pink Floyd, ha avuto dei problemi perché tutti compravano Pink Floyd e non compravano Roger Waters. problemi, per modo di dire, chiaramente. Però è il marchio che conta, c'è poco da fare. Gli occhi anche. Poi me ne porto due della mia musa ispiratrice. Che è? Che è Bono Vox. Mi porto The Joshua Tree. Quella è una musa ispiratrice per un sacco di gente, secondo me. E All That You Can Leave Behind, che è uno degli ultimi. Che non è stato molto amato dai critici come 2000, disco. Secondo me, dopo Joshua Tree, è il miglior album. Ecco, perfetto. Tu cosa dici, Marco? Ecco, Marco condivide pienamente quello che tu hai detto. E poi finalmente un po' di America. Esatto. Con Hotel California degli Eagles. Hotel California. Perché, ecco, sono d'accordo con te. Io preferisco il secondo album, quello prodotto da Jackson Brown. Cioè il primo album, quello prodotto da Jackson Brown. Bello anche quello, però... O Desperado. Sento più America qui. Almeno da come l'ho ascoltato io. Sento più America qui in Hotel California. Tutta la discografia degli Eagles, ovviamente. Con Joe Walsh, allora? Con Joe Walsh. Cosa ha dato Joe Walsh, secondo te, gli Eagles? Che cosa non ha dato? No, è andato tutto. No, perché ha dato tutto. È entrato quasi subito dopo il primo disco, praticamente. Sì. Benny Lido aveva un altro modo di suonare. Era molto country, decisamente. Sì, Joe Walsh è blues. È blues, veramente in tutto. Più bluesman. Assolutamente, è sempre stato un bluesman. Ma sai, credo che portare dal... country, inserire quella che poi è la vena blues e forse far fare uno step in più ad un genere musicale, cioè vuol dire non mischiarlo al blues ma portarlo e unire due generi per portarli ancora più in alto entrambi. Sì, posso essere d'accordo. Quindi Hotel California è un upgrade. Sembra uno che ha venduto un disco. Cioè, è vero che dopo il thriller di Michael Jackson, il disco più venduto è la raccolta degli Eagles. Sì, la raccolta degli Eagles. Sì, esattamente, sì, quindi insomma, sì. Una roba incredibile. Benissimo, 23:26, no, mica abbiamo finito, abbiamo ancora mezz'oretta abbondante. E bisogna utilizzarla come... Dopo sentiremo anche un pezzo da disco, questo è chiaro, però dobbiamo utilizzarla suonando. Che cosa suonando? Ora suoneremo Round Round. Ah sì, benissimo. Che è il nostro quarto pezzo dell'album. E in acustico lo abbiamo questo il più rivisitato, il più insomma stravolto rispetto all'album del disco. E è una tematica molto importante. Il testo di questa canzone è stata scritta da Antonio, dal nostro chitarrista. Colgo l'occasione per dire che le musiche dell'album sono mie. I testi, è stato fatto un grandissimo lavoro complessivo dove Antonio ha scritto Round Round, dove Silvano ed Alessandro hanno scritto Never Come Back. Alessandro ha scritto When Look at the World. Gianfranco ha scritto la nostra Sexy Thing. Esatto. Che invitiamo i nostri fan a tradurre e ad interpretare in questo è un brano scritto da una rock band in tour, quindi insomma Sexy Thing dice abbastanza. E quindi ora faremo questo Round Round che parla del tema della guerra un pochettino, dove noi nel succo c'è una frase molto importante sul testo dove tu puoi dire, puoi fare, puoi decidere, ma tanto poi alla fine sembra come se questo contratto è stato già scritto. Ecco, questo è un po' il succo della canzone. Ok, questo è Round Round. Burning, the sky is flaming and shining. Once it was a cradle of life, now it's just a morning of war. I saw you turn blind. I saw you lost in your books. You eat your hooker and blues, just with your guns in your bags. All I see is war. I saw you turn round. Oh Lord. World, but they say TV and magazines. All I see is war. I saw you turn round. Oh Lord. Oh life. Oh, then I saw you turn round. Whoa, Lord. you turn right around. Oh Lord, oh life, oh that I saw you turn right around. I saw you turn right around. I saw you turn right around. I saw you turn right around. Questo strumento meraviglioso, è la prima volta che ospitiamo questo strumento, in assoluto, è bellissimo, un pezzo bellissimo, una ballad vera e propria, cioè rispetto al disco l'avete rallentata, sì. Decisamente rallentata. Un critico ha scritto che ricordava Bryan Adams questo pezzo. Nel disco sì, nel disco sì, però qui l'avete completamente riarrangiata in maniera diversa. Sì, a noi piace molto portare alle persone quello che abbiamo realizzato con molta fatica, sacrificio e dedizione, cioè che è l'album. Però ci piace suonare, ci piace trovare. Noi siamo una band che ha un po', forse come probabilmente tanto del Southern, che è un genere che sì, si fa ascoltare, però probabilmente si fa più vedere, sì, nel live. Noi abbiamo molto nei nostri live, nei nostri concerti, noi siamo molto, curiamo molto il live, noi abbiamo uno staff, e quindi colgo anche l'occasione per ringraziare Romina Suad, che è la nostra coreografa, che cura un pochettino l'assetto del palco. E come vi vestite? Come vi vestite? Non c'è allora premetto, perché si potrebbe fraintendere, non c'è nulla di forzato e nulla di studiato a tavolino, esatto, o di prestabilito, però c'è molto di curato, che è una cosa diversa. Certo. Sicuramente ognuno di noi ha la propria personalità sul palco. Raramente, ma forse non è mai neanche capitato di andare in jeans e maglietta, ma perché poi realmente nessuno di noi è così. I nostri abbigliamenti sono abbigliamenti comunque rock, veniamo da una cultura, come abbiamo detto e come abbiamo citato nei nostri album, dove insomma possiamo vivere un po' la pelle degli indumenti, no? E quindi non vi aspettate i Kiss, ma insomma appunto. Non vi aspettate neanche magari una normale esibizione live, così insomma da jeans e maglietta. E ritornando allo step della musica, noi amiamo suonare e quindi automaticamente trovare anche delle nuove sonorità. Noi stiamo in lavorazione per un grandissimo spettacolo che faremo probabilmente a fine del 2013, in collaborazione appunto con Tony, con la TSP Entertainment, che è un grandissimo live unplugged, dove ci saranno tanti musicisti, probabilmente 12-13 musicisti. È un grande evento unplugged con tanti strumenti nuovi e particolari. A proposito di strumenti nuovi, cari ascoltatori, voi non lo sapete, però parlavamo con i ragazzi prima di cominciare il programma, c'è l'idea di creare uno strumento nuovo, vero Silvano? Beh sì, sì. Visto che Marco è anche liutaio. Marco è un liutaio e anche molto bravo. Grazie, ma tu sei amico mio. La scuola che ha fatto è di uno dei più grandi liutai che c'è, che fortuna per noi vive a Roma, e io adesso sto iniziando questo cammino, voglio costruirmi uno strumento per cercare anche di mettere veramente in pratica, esatto, qualcosa deve suonare proprio come dico io. Voglio provarci quantomeno, perché la ricerca del suono per un musicista è tanto, non è soltanto tecnica, non è soltanto, devi anche farti riconoscere per un suono, anche solo per un suono, e per fare quello ci vuole, lo possiamo dire, un pizzico di maniacalità. Devi stare lì, devi cercare qualcosa che per te va bene. E poi devi certo, fidarti del tuo istinto, e devi cercare di portare avanti quello che tu vuoi. Alex, oltre a voi, chi ha suonato nel disco? Se non abbiamo citato qualche altra persona. Wow, tanti nomi. Chi non ha suonato? Oltre a noi, ovviamente, ricito gli altri elementi della band: Gianfranco alla batteria, Antonio alla chitarra. E da Nashville hanno suonato Scott Joyce e Michael Duchette. Due nomi conosciutissimi, sì, nell'ambito esattamente. Quindi grazie a Dave e grazie ai Dark Horse Studios abbiamo potuto collaborare con questi due grandi artisti. L'etichetta, citiamo l'etichetta? Assolutamente sì, la Revel Records, che ci sta dando una grandissima mano e rientra, come abbiamo detto prima, del nostro grande staff, perché insomma, per fare le cose giuste, con i tempi giusti, ma nella maniera giusta, noi siamo dell'idea che ognuno debba fare il suo lavoro. Se noi facciamo il lavoro di altri, non funziona, e viceversa. Quindi l'etichetta sta facendo un grande lavoro con noi di promozione e di assistenza su tutto quello che è il lavoro della band, e quindi ringraziamo assolutamente anche se loro. Uno vuole acquistare materialmente il disco, come fa? Che Beh, canali ci sono? Su iTunes, per esempio, abbiamo la possibilità, c'è tutto l'album e sul nostro sito, e sul sito, perché poi abbiamo i link per poter andare su iTunes ed Amazon. Il sito è www.wsbmusic.com, wsbmusic.com, e oppure www.wildshooterband.com, e sotto la dicitura Wild Shooter Band trovate la band sotto tutti i canali, che siano di YouTube, di MySpace, e di Reverb Nation, Facebook. Assolutamente, su Facebook avete due account, la classica paginetta del mi piaci, oppure avete anche l'account diretto, che potete scegliere e farci la richiesta. Per noi è di vitale importanza, certo, avere naturalmente, ma poi come tutti noi diciamo sempre, che noi musicisti senza gli spettatori non, è una frase fatta, no? Si dice, si usa, però poi non so, alla fine è così. È bellissimo suonare per te stesso, ma alla fine conta la gente, conto che arriva, no? Esattamente. E un'altra cosa, se avete qualche data da fare adesso. Argomento bellissimo per noi. Allora, noi ora saremo a Milano domenica prossima. Ora purtroppo non ricordo esattamente il nome, perché abbiamo avuto un contatto proprio mentre venivamo qui. Sì. E aggiorneremo in nottata il nostro sito web, e quindi avremo poi il nome. Quindi verremo su a Milano questa domenica. Nel futuro abbiamo dei grandi progetti. Suoneremo, dovremo organizzare un tour in Italia che racchiuda il sud, il centro e il nord. Tutto questo riguarderà sicuramente la prossima stagione. Nel periodo estivo stiamo lavorando già ai nuovi pezzi e stiamo allestendo gli spettacoli dei prossimi turni. Studiamo, d'estate studiamo. D'estate noi studiamo dentro casa. E la prossima stagione ci vedrà partecipi di un mini tour di tre date in Germania, al festival in Polonia, dove anche lì seguiranno altre date unite, quindi anche quello diventerà poi un tour, questo per la fine del 2013, e quindi in Italia, come abbiamo detto, e del 2012, e nel 2013 saremo prettamente in Germania, ma credo anche al di fuori, quindi racchiuderà anche altri paesi, in un tour un po' più lungo nei club, e alla fine, sicuramente il 2013, questo spettacolo Unplugged grande di cui ti parlavo. Certo. Naturalmente usciranno nel frattempo tante altre date, perché comunque insomma, poi bene o male, andando avanti, le date ai concerti, anche magari più spot, escono sempre. E quindi, se avete ascoltatori, se avete il piacere, seguiteci sul nostro web sito e lì troverete tutte quante le nostre date. Sempre in work in progress. Assolutamente sì, ma è la cosa più importante, dai, vuol dire non fermarsi mai. Certo, certo. Keep in touch. Esattamente, adesso non ci fermiamo mai, perché dobbiamo sentire il pezzo che non abbiamo ancora sentito dal disco, che è la traccia numero... La numero 9. Numero 9. Lo sentiamo e poi ne parliamo. Perfetto. Ok? Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Don't believe. I used to understand the life is real and not a cartoon. It's very easy to believe in Mickey Mouse, but war is real, my dear. The Lord of War, sign your deal. The good times are slowly fading out, but I won't give up, I will fight. The good times are slowly fading out, but I won't give up, I will fight. God took a rest for a while after 6 days of work. Can't spot a fake, you know, eyes are light. But people do what they want. Seems to be sliding down, down, down, down. To wheel a box. Who's bound to work to save the weak and now stealing in the streets? Who's bound his life believing now it doesn't care? We lay your heads to rest. We lay your heads to rest. We lay your heads to rest for a crown. I want the crown. Radio Veneto Rock. Eh sì, un bel pezzo rock, ma veramente tirato. E poi tu cantavi in modo cattivo, nel senso positivo, cioè aggressivo, aggressivo proprio. Proprio aggressivo. Perché il titolo dà la sintesi, si chiama The Crown of Fools, chiaramente certo, dà un certo significato. La corona dei folli. Esattamente, appunto, dà un certo significato. Che il giullare era quello che... Il giullare è l'unico a cui non veniva tagliata la testa. Gli altri. Era l'unico che poteva dire le cose, anche al re. Anche al re. Scherzando, sì. Ma anche al re. Certamente. Però poteva realmente dire, e le dicevano. Esattamente. Chiunque altro invece veniva poi o tagliata la testa o preso o rinchiuso o quello che sia. Però insomma era, come dicevi tu prima, la libertà di parola poi è una delle cose più importanti che abbiamo. È fondamentale, sì. No, anche qui, scusa, perdonami. No, dimmi. No, anche qui si nota parecchio il lavoro di Dave, soprattutto nella mia parte. Come t'ha, non sistemato, come t'ha indirizzato, possiamo dire così, Dave. Essere cattivo. Essere cattivo mentre cantavo. Mi diceva Silvano che voleva fare qualcosa in più, però ti ha un po' stoppato, senso positivo del termine. In questo brano? No, vabbè, anche in questo brano, per esempio, c'è un special in mezzo dove un pochino c'è una svolta, c'è una svolta musicale che ti fa anche un po' capire che i pazzi sono anche un po' questo, cioè che fanno una cosa e poi dopo ne fanno immediatamente un'altra e con naturalezza, perché per loro non cambia molto, ma invece cambia. E io ho detto, ma Dave, facciamo questa cosa un po' funky, disco anni 80, con questa figura di basso. Mi fa, la figura è bellissima, ma la fai live. La figura è poco da fare, ma la fai live. Qui registriamo così, bella la batteria, la facciamo così, però il basso non te lo faccio fare. Però poi dopo uno deve sempre anche dire le cose come stanno. Quando live facciamo quello special, rimane uno special con quella figura di basso, perché quello che poi lui ha scelto lo facciamo sempre, perché sì, piace perché anche a noi. Hai detto facciamo live, cosa vuol dire Marco facciamo live? Cioè Silvano può trasgredire, cioè per andare oltre, sì, poi allargarsi. Sì, insomma, assolutamente sì, nel senso quando abbiamo lavorato insomma quello fa. Beh, ci sono anche gli altri, chiaramente io sto parlando con, certo, i tre, cioè, certo, ci sono anche gli altri che hanno... Concettualmente è esattamente lo stesso per tutti, cioè nel, certo, senso il disco, il lavoro è, sai, quando tu lavori con un produttore o lavori con un'etichetta o con una major o con delle persone che fanno parte dello staff e ti sanno consigliare, devi essere umile e capire che ognuno sa fare il suo lavoro e deve ognuno fare il suo lavoro. Quindi nella fase della discografia, in maniera particolare, con Dave, che ha una enorme esperienza disco e non e live, perché lui era anche musicista, è musicista di tantissimi generi, ha suonato tantissime diverse tipologie di musica, nel disco lui ti dice ok, questa è la discografia, rispecchia in determinati momenti alcuni schemi che vanno rispettati. Sicuramente valutiamo tutto, perché comunque tutto è valutabile, però nel caso specifico, come è stato detto a Silvano, in questo special dobbiamo fare una cosa più discografica. È un consiglio da parte sua. Esatto, perché chi mette un disco dentro casa o in macchina è sicuramente in una situazione diversa piuttosto che live. E poi ha detto, giustamente, però la tua parte è bellissima e durante il live falla, anzi, se puoi, falla sempre, perché è più giusta per il live. Poi non è che stiamo cambiando, stravolgendo il pezzo, però stiamo suonando, magari adattandoci meglio a quelle che sono le varie circostanze, i vari palchi in cui andiamo. A volte suoni nei festival grandi e quindi hai la possibilità di replicare, realizzare realmente quasi il più fedele possibile quello che tu hai fatto nell'album, in studio, oppure a volte suoni in dei posti, magari suoni più rock and roll, suoni in dei posti più stretti, con la gente realmente che hai, no, addosso. E allora lì devi fare rock and roll e devi dare la musica, lì devi far arrivare il pezzo alle persone. Quindi ho capito, quindi Dave è diventato, oltre a essere un produttore, è diventato uno che vi ha dato anche una mano per gestire determinate, sì, situazioni. Assolutamente, cioè, sì. Questa è la mentalità di cui parlavamo prima, cioè quando lavori con persone che ne sanno tanto e che hanno questa grande esperienza, tu assimili l'esperienza non solo nella discografia o nel registrare. Si torna a scuola per tutto e per tutto. Sì, perché è la cosa più importante. Io dico sempre che oggi chi va a lezione di musica, no? Ok, mi metto lì, questi sono gli accordi, questi sono le scale, adesso suoni, ora improvvisi, adesso sei suonare. Dietro e sicuramente prima di tutto questo c'è un mondo ancora più grande, che è la cultura americana di cui noi parliamo. Cioè, dentro ogni casa americana c'è una chitarra, quindi vuol dire che la musica non è studiata, la musica è vissuta, e dietro questo c'è tanti piccoli segreti, c'è il live, come stare sul palco, ma viene più spontaneo dopo, viene più naturale, perché fa parte ormai di te. Con Dave una piccola cosa particolare che voglio, che ci tengo a dire, soprattutto in questo pezzo, è che lui, a prescindere dall'essere produttore, quindi dal lavorare con noi sul pezzo, sul brano, sul disco e sulla qualità, noi con lui abbiamo un ottimo rapporto di amicizia, è diventato uno di noi, insomma, uno di famiglia, no? Uno di famiglia, sì, perché... Diciamoci, facciamo gli auguri per le feste, questo non, sì, lo fai, sì, con un produttore... Esatto, io sono stato adesso negli Stati Uniti recentemente, un mese fa, sono stato 5 giorni ospite a casa sua, non per lavoro, poi abbiamo anche, vabbè, sicuramente parlato di alcuni progetti futuri, ma è stato un piacere stare con la sua famiglia, stare con lui, e viceversa quando lui viene in Italia. Quindi questo ti fa crescere tanto con il rapporto con le persone, soprattutto perché capisci che le persone che ne sanno 10.000 volte più di te sono umili quanto esatto, te e sanno stare con te, esatto. Ok, questo è molto importante. E la cosa molto carina che ci tengo a dire è che quando abbiamo registrato questo pezzo, naturalmente nel nostro studio arrivavano, no, un po' tutti i nostri amici che venivano a vedere le varie registrazioni, incuriositi di vedere insomma questo personaggio americano che stava lì alla console. E lui aveva assolutamente un pensiero per tutti. E sì. La cosa più bella è stata che ad un certo momento lo studio era tipo iperaffollato, sembrava un concerto live, perché poi insomma questa parola girava quindi tra gli amici, e poi si era concentrato tutto quanto in un determinato momento, tantissime persone, forse 15-16, che stavano lì intorno a noi. Allora lui che cosa ha fatto? Ha reso partecipi tutti quanti queste persone, e nel ritornello di questo, nel corso di questa canzone, dove c'è la frase, dice "I will fight", io combatterò, lui ha messo 16 persone nella sala di registrazione, le ha chiamate tutte quante, le ha messe nello studio, ha messo i due microfoni panoramici della voce e dagli gli ha fatto agli registrare 80 anni. Esatto, c'erano tutti dagli 8 agli 80 anni. E gli ha fatto registrare il coro, che poi è inciso, quindi come se fosse, diciamo, un grande a 16 persone, quindi come se fosse un urlo praticamente, certo. E quindi tutte queste persone che sono venute da noi come amici, insomma, a vedere il lavoro eccetera, poi hanno fatto parte comunque anche il disco. Questo è un semplice pensiero per ognuno di noi, forte umanità, veramente molto bello. Abbiamo ancora 7 minuti circa, 8 minuti, allora facciamo così, suoniamo un primo pezzo live, sì. Poi ci salutiamo e poi finiamo con un altro pezzo live. Perfetto, benissimo, ora andiamo a fare When I Look at the World. Ok, 1, 2. Walking the spot my feet every day with the sound shoes, so I can reach the deep blue. Now some mountains in my mind, on the road about it to my side. I'm playing a guitar under the sky. I see people till the sun goes by. Oh my darling, I want you forever. Oh my baby, we could be in love. I can't wait any longer. I can't wait any stronger. I can't wait any longer to see what you see. When I look at the world, when I look at the world, when I look at the world, when the day comes to the end, a million toes flow to my head, and nothing takes away the desire. While I have you in my mind, oh my darling, I want you forever. Oh my baby, we could be in love. I can't wait any longer. I can't wait till I'm stronger. I can't wait any longer to see what you see. I can't wait any longer. I can't wait any stronger. I can't wait any longer to see what you see. I just wanna love you, baby. I never count it could be true. I just wanna hurt you, baby. Now I'm gonna be in sorrow with you, yeah. And if ever gonna hurt you, baby. Just gonna leave her on the moon. Yeah, yeah. And I wanna help, baby. We will walk the spell together. Come on. I can't wait any longer. I can't wait till I'm stronger. I can't wait any longer to see what you see. I can't wait any longer. I can't wait till I'm stronger. I can't wait any longer to see what you see. When I look at the world, when I look at the world, perfetto, questo non era un pezzo country all'inizio, poi se... è voluto, è un po' voluto, poi si è un po' cambiato e... ma è sempre così, è sempre noi partiamo così. In una maniera, poi insomma abbiamo noi ci guardiamo, sai, perché il live poi è questo, certo, ci cambiamo, certo. Ok, perfetto, è venuta questa cosa, okay, la facciamo. Beh, è voluto, nel senso è cambiato e poi è ritornato. Beh, come c'era prima. Wilde che diceva che solo lo stolto non cambia idea e noi anche in un pezzo riusciamo a cambiare idea, perché secondo noi è meglio è bello così, perfetto, era tutto dal vivo. Sono le 23:58, io non so come ringraziare la Wild Shooter Band, grazie a te, da Roma, grazie a te. Alex Tarani alla voce, grazie a te, Marco Bartoccioni alla chitarre. E Silvano Lentini grazie. Al basso. Grazie Maurizio, grazie Blue Radio. Grazie a voi che siete venuti da Roma e ci avete donato 2 ore di ottima musica, musica pulsante, acustica ma sempre pulsante in certo, ogni caso. Assolutamente. Esattamente. In un modo o nell'altro rock. Ricordiamo Inside, che è il vostro album che è uscito l'anno scorso. È uscito nel novembre 2011, quindi insomma, è abbastanza recente. E ci sono dei progetti per altre cose, come tu Marco parlavi. Come ti dicevo, probabilmente il prossimo album che uscirà, se i piani e se anche con l'etichetta e Dave riusciamo a trovare poi il giusto lavoro e il giusto accordo, speriamo di poter realizzare, dato che noi siamo una band che suona tanto e ha la fortuna di suonare tardo, visto il periodo storico, certo, che noi abbiamo, che corre. E di poter realizzare un nuovo album live, che sarà di questo grande unplugged che andremo a realizzare, con la speranza di poter inserire dentro 4 inediti nuovi. E questo è una piccola anteprima di quello che faremo. Benissimo, grazie a Marco Borgato in regia, grazie, che Marco. È stato il fruitore di tutti i suoni stasera. Domani sera verso le 21 ci sarà Agostino col suo programma. E adesso terminiamo, diamo la buonanotte ai nostri ascoltatori con cosa, ragazzi? Noi chiuderemo con Smokey Chicago, che è il nostro punto di forza. Esattamente, il vostro pezzo trainante. Buonanotte a tutti e grazie. Grazie a tutti. Grazie buonanotte a voi. Flashing light on the city, but it's not the place. Close to your eyes and run where you cannot see you. And on the lane looking for the blues, everyone's gonna light her love. Shining lights on the distance in the silent night. This is you, blessing the dark and the dead of night. And the dead of night.